was just sentite, d'ora in avanti niente più Guns N' Roses e Soup Dragons, capito? Vi voglio a dieta stretta di Soul. James Brown a colazione, Otis Redding a pranzo, Smokey Robinson a cena e Aretha per gli spuntini fuori pasto. Il Soul ha il ritmo del sesso e anche il ritmo della fabbrica, ha il ritmo dell'operaio, del sesso e della fabbrica. Il soul è musica che il popolo capisce. Certo, è musica semplice, ma ha qualcos'altro, qualcosa di speciale. È onesta, ecco, è sincera. Non è musica stronza. Ha il coraggio di dire che viene tutto dal cuore. Certo, c'è un sacco di musica che dà piacere, ma il soul dà più di questo. Il soul ti porta lontano, ti afferra per le palle e ti tira fuori dalla merda. Ciao, ciao a tutti e a tutte, bentrovati a questa nuova puntata di Soul Time qui su Radio Wombat e solo su Radio Wombat. Vi ricordo che Soul Time, come dice il titolo stesso della trasmissione, si occupa di musica soul, come dico sempre, di tutta la musica soul, con un particolare occhio di riguardo al Northern Soul, e ne ascolteremo molto, moltissimo anche durante quest'ultima puntata. Ultimamente Soul Time è andata in onda un po' a singhiozzi, causa impegni personali. Sto lavorando per stabilizzare maggiormente questa trasmissione, ma tant'è. Quindi iniziamo con il nostro Soul e partiamo con questo disco di... Scusate un attimo, eccolo qua, lo preparo, sennò poi parto in ritardo. Con questo disco di Herbert Hunter che si intitola I Was Born to Love You. Herbert Hunter è un nome molto conosciuto dagli affezionati della musica Northern Soul, che ha fatto molti dischi, soprattutto negli anni 60, per l'etichetta Spar. In particolare ne ha fatti poi una quindicina molto conosciuti. Herbert Hunter è particolarmente famoso per essere un cantante che con la sua voce era in grado di adattarsi a diversi approcci musicali all'interno della musica soul. A volte poi i suoi brani sono in particolare dei tagli, delle versioni nuove, rivedute e riarrangiate di alcune hit in voga proprio in quel periodo, tra cui si ricorda in particolare Happy Go Lucky. Io per iniziare questa puntata vi spingo questo brano qui di Herbert Hunter, appunto, gran brano, che si intitola I Was Born to Love You, brano stampato su etichetta Appunto, Spar risale proprio a questo periodo, agli anni 60, in particolare al 1966. Quindi, questo 7 pollici su etichetta statunitense Spar del 66, il brano si intitola I Was Born to Love You, Herbert Hunter. Don't you believe it, baby, when they say the things they say. I would never ever do you that way, just to be near you, how I crave it. I worship the ground you walk upon, without you here I don't belong. Questo era Herbert Hunter con I Was Born to Love You. Ci spostiamo verso la città di Filadelfia, verso il soul di Filadelfia, con Eddie Holman. Eddie Holman, nato nel 1946, ed è appunto un cantante ed artista statunitense, conosciuto principalmente. Il suo brano più famoso è del 1970, che si intitola Hey There, Lonely Girl. Ma io, tanto per cambiare, non vi farò ascoltare questo, ma è un grandissimo brano. Molto molto conosciuto in ambito Norden, che si intitola I Surrender. Eddie Holman, tra le sue specialità vocali era proprio la capacità di spaziare dall'R&B al gospel fino ad arrivare al pop. In realtà Holman, nonostante sia una voce particolarmente conosciuta proprio come il soul della città, per il soul della città di Filadelfia, in realtà è nato in Virginia, ma cresciuto nei primi anni di età a New York. Iniziò a cantare fin da bambino, letteralmente da bambino. Sua madre racconta che già amava cantare dall'età di 2 anni, e imparò prestissimo a suonare il pianoforte e la chitarra. Poi la svolta per la sua carriera arrivò da giovanissimo, più che giovane, da bambino in realtà partecipò a un concorso vocale all'età di 10 anni. presso l'Apollo Theater, insomma, non proprio nel barretto sotto casa, con la sua voce da tenore vinse questo concorso e quindi gli si aprirono ben presto anche le porte dei teatri di Broadway. Poi, da adolescente, con la sua famiglia Holman, si trasferì proprio a Filadelfia, dove si laureò in musica e nel 1962 incise il suo primo singolo sulla Leopard Records, e così partì la sua carriera e la scena soul di Filadelfia rimase indissolubilmente legata al suo nome. Poi la sua carriera proseguì, raggiunse addirittura le vette delle classifiche della Billboard Hot 100 e anche dei singoli della classifica britannica nel 74, vendendo milioni di copie. Nel 1970 vinse anche un disco d'oro. Quindi ci andiamo ad ascoltare questo brano di Eddie Holman che si intitola I Surrender su questa etichetta inglese chiamata Action, questa stampa del 1969. Lui è il nostro Eddie Holman, il brano è I Surrender. I Surrender, brano stilosissimo di Eddie Holman. Proseguiamo con la musica e ci andremo ad ascoltare un certo Bob Ralph, famosissimo in realtà per essere la metà del famosissimo duo di musica soul Bob and Earl, di cui vi ricordo una delle canzoni più famose non solo in ambito soul, ma forse della black music statunitense come Harlem Shuffle. Però naturalmente Robert Nelson Ralph ha lavorato anche come solista. Poi il suo brano più famoso come solista è proprio quello che vi proporrò questa sera, il brano che si intitola Blowing My Mind to Pieces, brano scritto da Lou Barreto e prodotto dallo stesso Lou Barreto e Rod Mumgardner. La canzone è diventata molto molto popolare negli anni 70 proprio nella scena Northern Soul del Regno Unito. Quindi ce l'andiamo ad ascoltare subito. Questo brano che ho su etichetta Black Magic stampa del 1975, stampa inglese. Ci ascoltiamo Blowing My Mind to Pieces. Lui è Bob Ralph. Someone new, you hold and you kiss him just the way we used to love. You say you realize mistakes you made, and I keep a trying to hear you, baby. You just blowing my mind to pieces. You just ruining my life some more. You keep a blowing my mind to pieces. You got me hurting like never before. I'm gonna have to let you go. Yes, I gave you everything that I had, but baby, you just wouldn't let me be your man. Bob Ralph con Blowing My Mind to Pieces, brano brevissimo, tra l'altro di appena 1 minuto e 55 secondi, originariamente stampato negli Stati Uniti per l'etichetta Trans American. Quindi direi di diminuire le chiacchiere, ci ascoltiamo, eccolo qui, è pronto. Ecco qua, gli imprevisti. Ecco qua, ci ascoltiamo i The Four Precisions, scusate, i The Four Perfections, scusate, ho confuso i gruppi, i The Four Perfections con il brano I'm Not Strong Enough. Rimariamo sempre negli anni 70, questo brano è del 1976, su etichetta Cream Records. Quindi loro sono i Four Perfection, il brano è I'm Not Strong Enough. Keep on needing it, 'cause I'm not going enough to break away. I try hard to go, break away. My heart. The Four Perfections con I'm Not Strong Enough. Proseguiamo la nostra selezione musicale, torniamo leggermente indietro negli anni, andiamo verso la fine degli anni 60, precisamente nel 1968, con un brano di Moses Smith. Di Moses Smith si sa praticamente niente. Ho fatto un po' di ricerche per presentare quest'autore, ma anche per interesse personale. Si trovano notizie molto confuse e nessuna di queste è praticamente certificata. Si ipotizza che per un periodo fosse un cantante attivo a Filadelfia, ma non è neanche sicuro che sia lo stesso Moses Smith individuato nella città statunitense. Però Moses Smith, chiunque esso sia e qualsiasi cosa abbia fatto, ci ha lasciato un grandissimo brano che vi faccio ad ascoltare. Si intitola The Girl Across the Street, stampato all'epoca su etichetta Dion. Siamo nel 1968. The Girl Across the Street. No one knows where she came from. Everybody seems to care when she walks down the street. Oh yeah. Oh, all the fellas there when she passed them on the way. They start to whisper right away. They say, who's that lonely little girl? They say, where did she come from? 'Cause I don't know. Questo era l'oscuro Moses Smith con Girl Across the Street. Passiamo invece a una figura che oscura non è, passiamo a Mama Soul, Doris Troy, chiamata dagli affezionati della musica soul Mama Soul, una figura importantissima per l'R&B e il soul importante e decisiva per la storia di questo genere musicale. Nata Doris Elaine Higginson nel gennaio del 1937 e scomparsa nel 2004, cantante e cantautrice americana, appunto, conosciuta dai suoi numerosi fan come Mama Soul, il cui più grande successo è stato Just One Look, entrato nella top 10 statunitense nel 1963. Nata nel Bronx, figlia di un sacerdote pentecostale delle Barbados, poi più tardi ha preso il nome di sua nonna e si è fatta conoscere come Doris, anche come Doris Payne. Ovviamente, come tanti altri artisti afroamericani, ha iniziato a cantare in chiesa e anche in questo caso i suoi genitori disapprovavano queste forme musicali definite addirittura all'epoca sovversive come i rhythm and blues, e quindi lei comunque continuò a cantare per amore della musica nel coro della chiesa di suo padre, ma nel frattempo si guadagnava da vivere lavorando come usciera all'Apollo Theater, dove fu scoperta da James Brown. Troy, nella sua carriera, ha avuto modo di lavorare e collaborare con artisti del calibro di Salomon Burke, i Drifters, C.C. Houston, Dionne Warwick e tanti tanti altri, prima poi di intraprendere una grande e importante carriera da solista. Durante la sua carriera, tra l'altro, ha cantato anche come corista per i Rolling Stones, Humble Pie, Edgar Burton, i Pink Floyd. Nel loro album The Dark Side of the Moon c'è anche la sua voce, George Harrison, e poi nel 1969, dopo tutte queste importantissime collaborazioni, si trasferì a Londra, nel Regno Unito, firmando con l'etichetta dei Beatles, la Apple Records. Quindi ha inciso tantissimi brani veramente, veramente spettacolari. Io questa sera vi propongo questo brano di Doris Troy del 1966, che si intitola I'll Do Anything, tra parentesi, He Wants Me to Do. Su etichetta Cameo Parkway. Lei è Doris Troy, il brano è I'll Do Anything. Eccola qui. Just to be near me. Gotta be E questa è Soul Time su Radio Wombat. Ci siamo appena ascoltati Doris Troy con I'll Do Anything He Wants Me To Do. Quindi, eccolo qua, prossimo brano del 1965 di un'altra figura abbastanza oscura. Lui è Frankie Carl, si sa abbastanza poco anche di lui. Si sa che ha iniziato con la musica gospel con i Kojic Singers, in collaborazione con Edna Wright, Gloria Jones, Billy Preston e diversi altri, per poi iniziare ad esibirsi con i The Chevrons prima di passare ai Dreams. Poi tornato probabilmente a Los Angeles per incidere con la Liberty. Il brano che vi propongo questa sera è su etichetta Philtown ed è un brano del 1965 inciso in collaborazione proprio con The Chevrons, che è considerato attualmente una grande rarità. Il brano quindi su Philtown del 65 su questo 45 pollici si intitola You Should Have Held On. Ce lo andiamo ad ascoltare. Frankie Carl and the Chevrons. Still I can't deny it. Questo era Frankie Carl and the Chevrons con You Should Have Held On. Ci spostiamo invece con l'ascoltare il generale Norman Johnson, conosciuto come Norman Johnson o General Johnson. nato nel 1941 e scomparso abbastanza recentemente nel 2010, è stato il frontman dei Chairman of the Board. È un produttore discografico, anche un produttore discografico di rhythm and blues. Anche Johnson iniziò prestissimo la sua carriera, iniziando a cantare nel coro della sua chiesa all'età di 6 anni, mentre il suo debutto discografico avvenne proprio quando aveva 6 anni sulla Atlantic Records, che registrò il suo gruppo Humdingers, che abbiamo già ascoltato durante queste puntate di Soul Time, anche se queste tracce poi in realtà non furono mai messe in stampa e distribuite all'epoca. Poi nel 1961, in seguito al cambio di nome degli Showmen, Johnson e il suo gruppo registrarono un singolo per la Minute Records che si intitolava It Will Stand. Fu un successo in tutto il mondo, e sebbene poi gli Showmen registrassero altre offerte dalla Minity e dalla Swan, si separarono nel 1968. Poi Johnson tentò una carriera da solista che durò ben poco, ma poi ripartì alla grande quando firmò per l'etichetta Invictus a Detroit, diretto da Holland Dozier Holland. Johnson ha reclutato Danny Woods proprio dagli Showmen, Harrison Candy e Andy Curtis, creando il gruppo creando il gruppo Chairman of the Board. Ecco qua, scusate, stavo lottando con il giradischi, creando appunto questo grandissimo gruppo. Io questa sera vi propongo di Norman General Johnson un brano inciso nel periodo in cui era membro e frontman degli Showmen, un brano precisamente del 1969, stampato in Inghilterra per la label inglese Action. E quindi ci ascoltiamo Our Love Will Grow di Norman Johnson and the Showmen. Waddle in the ocean. Norman Johnson and the Showman con Our Love Will Grow. Proseguiamo con la musica qui su Soul Time. Oggi è un po' la puntata degli artisti oscuri e semi sconosciuti. Ci ascoltiamo questo brano dei The Temples. Temples, gruppo vocale di Pittsburgh, conosciuto principalmente per aver inciso il famosissimo e molto molto popolare brano See You in September nel 1959. Io dei Temples vi faccio invece ascoltare questo brano stampato su etichetta Canterbury, etichetta statunitense, nel 1967. Ci ascoltiamo questo 7 pollici appunto su etichetta Canterbury, che si intitola Here I Come, tra parentesi Countdown. Loro sono i The Temples. Rieccoci in studio. Loro erano i The Temples con il brano Countdown, Here I Come, brano prodotto da Bobby Sanders sotto l'egida della Soul Town, su etichetta Canterbury. Anche per questa puntata il tempo è praticamente quasi esaurito. Avevo in realtà preparato altri brani, ma pace, ce li ascolteremo nella prossima puntata. Quindi le lancette corrono. Vi lascio con un ultimo brano. Vi ricordo che questa puntata di Soul Time, come tutte le altre, potrete poi riascoltarle sul sito di Radio Wombat, radiowombat.noblogs.org, sotto la sezione appunto Soul Time, ovviamente. Vi lascio con questo bellissimo brano di Curt Harris. Curt Harris, conosciuto anche come Curtis Scott, brano che si intitola Emperor of My Baby's Heart, per la precisione brano su etichetta Diamond. del 1964. Io vi saluto e ci riascoltiamo settimana prossima, sempre su Radio Wombat con Soul Time. Ciao a tutti, a tutte, alla prossima. When I'm walking down the street, I'm just another guy. No one pays attention anytime I'm passing by. But when I'm with my little girl, I'm something special in this world. The bugles play, oh, the trumpets start. Of my baby's heart, Lord knows I am. At the dance party, I don't ever steal a show. Lots of other guys are handsomer than me, I know. But when my baby kisses me, I feel like I am royalty. The bugle play, oh, the trumpet star, 'cause I'm the emperor of my little girl's heart. Lord knows I am. When she said that I'm her only one, I rule the earth, I own the moon and the sun. Oh, let the other guys be famous men or millionaires. They can have that kind of wealth and glory, I don't care. 'Cause when my girl says she's my own, I take my place upon my throne. The bugle play, oh, the trumpet start, 'cause I'm the emperor of my baby's heart. Lord knows I am. Of my baby's heart.